listening to Rock FM. State ascoltando Rock FM. La colazione dalle 7 alle 9. Pane, burro e rock and roll. Let the sunshine. È un sacco che non lo facciamo insieme. Torniamo a farlo insieme, amici. Lasciatelo splendere. Lasciamolo splendere a Leon, che ci dà il bentornato via SMS, cosa che fa anche Marco. Ciao leggende, buon rientro. Come on! Saluto anche a Infante Triste. Chiede se gli Schianto si arrabbiano per i bootleg. Non so, dopo glielo chiedo. Non credo. Saluto anche a te che ci ascolti solo oggi perché non sei ancora andato a letto. Complimenti, notte brava. Buonanotte allora, è un piacere darla buonanotte. Siete unici, gruppo d'ascolto Fatti Duri, Ok Cortina. Come state messi ragazzi là fuori? Ti chiedono se è arrivata la cartolina. Sì, è arrivata ragazzi, le cartoline da tante ce n'è, è sicuro che sono arrivate tutte. E ripeto, tenteremo di leggerle tutte quante. Sarà dura, ma ci proveremo. 335-100-7777. Ciao Filippo. Per chi ha già il computer acceso, che vuol dire che siete già svegli da più degli altri? Casella di posta elettronica che risponde al mio nome, ariel@radiorockfm.com. Abbiamo ancora l'almanacco del giorno, i compleanni, il test attitudinale, chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto abbiamo un sacco e una sporta di grande musica. Ciao. Yeah. fa strippare quando dice cool baby. Talking Heads, senti che roba, Burning Down the House, una bruciacchiata alla casa, via, non fa mai male, vecchi piromani che non siete altri. 7:34 minuti primi, ho fatto una carrellata di saluti solo maschietti, sarebbe doveroso far sapere al mondo che la trasmissione viene ascoltata anche da parecchie radioascoltatrici sempre più affezionate al nostro spazio mattutino, e ne saluterei un paio in particolare. Prima dicevo c'è qualcuno che ha già il computer acceso a quest'ora. Beh, lei ce l'ha, però presumo sia anche una questione di fuso orario. La mail è intestata a testa in giù, questo è l'oggetto della lettera che ci invia elettronicamente parlando. Sono a testa in giù nel vero senso della parola, caro il mio cialtrone. Ti sto emailando da Wellington, Nuova Zelanda, dove vivo da 6 mesi. Mamma, ci sente dalla Nuova Zelanda. Volevo salutare tutti di Rock FM e mandare un bacio e una sculacciata al mio Mauro, che purtroppo è tornato a Milano. So che non vi piacciono le cagate sdolcinate, ma e l'utilizzo della radio per questo tipo di scopi, ma quando la distanza è così tanta, una ne prova di tutti i colori. Brava, cara Betta! Speriamo che Mauro sia già sveglio a quest'ora, a questo punto, e che sia già sintonizzato sulle frequenze di Rock FM. Intanto il saluto da Milano alla Nuova Zelanda mi sembrava doveroso, come doveroso il saluto anche a quest'altra signora. Gruppo d'ascolto Donna in Ciclette. SMS che arriva con un tempismo quasi inquietante, visto il brano che sto per far partire. Lei si firma per l'appunto. Aspetta, però in diretta arriva anche Nonna Utimia, 101 anni, sempre più rocca, Castagneto Carducci. Bella Utimia, un saluto da Milano anche a te. Torno sul gruppo d'ascolto Donna in Ciclette dalle 7 alle 7:45. Pedalare non è mai stato così bello. Pedalare è quasi più bello di tracutracu. E allora per te in cicletta dalle 7 alle 7:45, e anche per voi già in giro ad assaltare la città con la vostra due ruote, perché non gustarci questa bicycle race? Bicycle. I want to ride my I say white, say bar. I say bite, say shark. I say him and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, say God. Give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is thank you. cocaine. I say John. I say Wayne. Hot dog. I say cool man. I don't want to be the president of America. I say cheese. Shoddy, yeah. I say please. She come text. I say Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is bicycle. Yeah. Bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. Bicycle. Come on. Bicycle. I want to ride my bicycle. Seconda puntata, secondo appuntamento con pane, burro e rock and roll, e anche questo martedì a tenerci compagnia ci sarà lui, direttamente da Bologna, il nostro rocker di riferimento, Roberto Fricantoni. Cosa sta facendo, Frick? L'elettroshock? No. Sto significando in qualche modo che sono elettrico, perché vorrei iniziare con un almanacco decisamente nervoso. Base, grazie! Vai con la base dell'almanacco. Martedì 4 settembre del 1882, Thomas Edison inaugurò a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Auguri alle reti di illuminazione elettrica, allora. Tutte. È il loro compleanno. Buon compleanno. Il 4 settembre del 1886 parliamo di guerre indiane. Dopo molto quasi... rock. Le guerre indiane sono piuttosto rock. Dopo quasi 30 anni di lotta, il capo Apache, Geronimo, il mitico, il gigantesco, l'inarrivabile, l'indimenticabile Geronimo, si arrese insieme al suo ultimo gruppo di guerrieri riducibili, al generale Nelson Miles, a Skeleton Canyon in Arizona. Nel canyon degli scheletri. Che nomi, che battaglie, Frick. Che uomini, Geronimo e i suoi irriducibili. Se non fosse che dobbiamo proseguire con l'almanacco, mi sparerei al volo un calumet con lei. Lo accendiamo dopo? D'accordo, facciamolo in onore del grande capo Apache, Geronimo. Proseguiamo con una brutta notizia. Aia, nel 1997, ovviamente il 4 di settembre, a Lorain, nell'Ohio, l'ultima Ford Thunderbird esce dalla catena di montaggio. Quindi da 10 anni non esiste più la Ford Thunderbird. Assolutamente no. Lei ha fatto in tempo a comprare la sua? Beh, guardi, ne avevo già parecchie in garage e quindi ho lasciato perdere, non ho colto l'occasione. E beh, che c'è? Gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, Then don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. I problemi di cuore, ale ale ale ho ho. Che bella notizia! Allora ragazzi, è ufficiale, da lunedì ci troverete su Rock FM. Ragazzi, che bello! Ci divertiremo come mai. Ma non fai colazione? Aspetto l'ispirazione. Scegli una colazione diversa. Scegli pane, burro e rock and roll. One morning I woke up and I knew it all. A new day, a new way, and new eyes for all. Lord, the way of the mind and all. Love is coming, love is coming. male sta chitarra. Abbandonato Young, restano Crosby, Stills & Nash per questa Tireminnanza, per questa Carry On. Allora, è ufficiale, il ponte mediatico Nuova Zelanda-Milano ha funzionato e ha dato anche un senso a questo programma radiofonico che di senso ne ha ben poco. Niente, abbiamo la risposta dell'amato dall'amica di Nuova, che scriveva dalla Nuova Zelanda, che contraccambia il buon Mauro da Milano. Hai capito, Trombetta? Siamo utili fondamentalmente. Tra l'altro, a proposito di Mister Trombetta, ieri nel rientro già qualche timida richiesta. Io ricordo che lo strombazzamento di Mister Trombetta porta bene, è una cosa matematicamente studiata, comprovata. Quindi non siate timidi, se avete bisogno di una spinta in più in questo martedì pomeriggio. Sì, buonanotte. Beh, se avete bisogno per martedì pomeriggio anche, ma è anche tipo un martedì mattina, visto che sono le 7.51. Ma io finché non sentiamo il brano clou, capito, non mi sveglio. Mi rifiuto di svegliarmi fin quando non arriva il brano giusto, che arriverà anche quest'oggi alle 8. Intanto continuano a fioccare gli sms. Siamo curiosi anche in questa nuova stagione di scoprire che cosa state facendo, dove state andando, e soprattutto di chiedervi un fiorino: qual è il vostro gruppo d'ascolto? Queste le domande che ci tormentano. 335-100-7777. Questa è Pane, Burro e Rock'n'Roll. E a proposito di sole, visto che il brano della settimana è Here Comes the Sun dei Beatles, ci avviciniamo con questa House of the Rising Sun, gli Animals. Che strano quando ci sono i brani così. There is a house in New Orleans, they call the rising sun. questo organo Hammond bollente, The Animals di House of the Rising Sun. Buongiorno che vi arriva dalle frequenze di Rock FM. Il messaggio recita: voi alla mattina mi fate star male con questi pezzi stupendi. È bello sapere che basta accendere la radio. Buon gustaio, la colazione che dà assuefazione, che è vicina ai radioascoltatori affezionati e soprattutto a quelli che regolarmente già a quest'ora si accorgono di essere in ritardo. Solo per voi c'è il ritardatario ritardato. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Buongiorno, dottore. Salve, direttore. Io sono mortificato per questo ritardo, che capisco, sì, è imperdonabile, sono il primo a riconoscerlo. Ecco, ma vede, lei adesso mi dirà che scusa inventa, ma non è una scusa, io sono qua per giustificarmi, ma le assicuro che è accaduto veramente. Mi stavo lavando i denti la mattina prima di uscire, a un certo punto è fuoriuscito troppo dentifricio dal tubetto e quindi mi sono impegnato a rimetterlo dentro. Io, lo sa, sono un tipo preciso anche sul lavoro. Io detesto gli sprechi anche in azienda. Lei mi ha encomiato per questa mia qualità. E insomma, infatti, ho tentato di rimettere il dentifricio nel tubetto. Sa, non è facile, perché il dentifricio ha tutti questi bozzi che vanno riempiti e bisogna avere la pazienza di reinserire la pasta fuoriuscita centimetro per centimetro. Esatto, e al tempo stesso, direttore, mi creda, bisogna stare attentissimi a non farselo cadere addosso, perché altrimenti poi bisogna perdere altro tempo per lavarsi e non va più via. Insomma, mi perdoni, non accadrà più. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore, offerto da Rock FM. Ecco, le prometto che da oggi lo schiaccerò con metodo, alla base, rivoltandolo di quel tanto che basta, come per le scatolette, un giro alla volta, non accadrà più. Mi hanno chiesto di fare uno spot. Uno nuovo. Pane, burro e rock and roll. Vuoi dire che per una volta il prodotto è migliore di quello che dicevate in pubblicità? Ti piace tutto questo, eh? Mi piace invitare la gente a sorridere.